Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e dieci minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico finanziaria, non parleremo, lo dico già, degli Stati Uniti. Domani avremo un'anticipazione, poi la lunga diretta di Radio 24 dalle 21 fino alle 11 di mattina, almeno alle 11 della mattina dopo. È chiaro che i mercati adesso, lo vedrete anche da molti siti, stanno scommettendo che ce la possa fare Hillary Clinton e quindi sono ben intonati. Questo spiega anche il rialzo dell'1,70% del Dow Jones, che trascina con sé Parigi più 1,80, Francoforte più 1,80, Londra più 1,5 e Milano più 2,25%, con un botto fortissimo di Monte dei Paschi. Allora, assolutamente speculativo, nel senso che non ci sono notizie diverse in senso stretto rispetto a venerdì, è una settimana invece in cui abbiamo visto un altro film da questo punto di vista. Però qualche notizia c'è, nel senso che e le commenteremo dopo. C'è sul Monte dei Paschi intanto l'avvicinarsi dell'assemblea dei soci del 24 novembre. La candidatura di Alessandro Falciai a presidente di Monte dei Paschi in sostituzione di Massimo Tononi, che potrebbe essere ufficializzata già sostanzialmente in queste ore, beh, piace evidentemente al mercato, più 19,50% il titolo. Invece notizie vere, ne parleremo, quindi non ipotesi, su Ferrari più 6,66%, e qui sono usciti i dati, vanno bene devo dire tutti i titoli legati a Exor, perché va bene Ferrari ma va bene anche Fiat Chrysler, più 4,90%. Per cento, la stessa controllante Exor guadagna il 2,85%. Visto che parliamo di dati, di conti, anche Brembo continua a approfittare dei dati, dei conti diffusi. Fatturato più 10% nei primi 9 mesi, balza l'utile, il titolo cresce del 3,60%. Bene anche Mediobanca più 4,50%, Estimicroelectronics più 4%, Unicredit pure e Prismian più 3,5%, come la Popolare Emilia Romagna e UbiBanca. Diamo sempre l'andamento a inizio settimana anche dei titoli. Snam, attenzione, c'è Italgas, lo dico perché il 14% di calo che registra Snam deve tenere conto, è solo apparente, perché tenendo conto dello scorporo di Italgas il titolo salirebbe. Ne parleremo in maniera più esaustiva durante i mercati finanziari. Faccio notare che dopo Monte dei Paschi e Ferrari l'altro titolo migliore in assoluto è la Fiera di Milano, mentre continua a calare oggi dopo aver avuto un leggero recupero Stefanel, -8,5%. Dicevamo, questo è l'andamento di borsa e la borsa che guarda le elezioni americane, come era ovvio. Noi oggi invece parleremo di temi che riguardano soprattutto la nostra legge di stabilità o legge di bilancio. Perché? Perché oggi su Sole 24 Ore ci sono le istruzioni per la compilazione e per si è aperta la finestra temporale per la sanatoria delle cartelle Equitalia, e il modulo va trasmesso entro il 23 gennaio 2017. Sul tema però della legge di stabilità registriamo due fronti critici per il governo. Uno più di carattere politico, rappresentato dal presidente della commissione Juncker, il quale ha detto l'Italia non smette, cioè continua ad attaccare la Unione Europea a torto, senza motivi, e anche con la flessibilità, ha aggiunto Moscovici invece, che è il commissario degli affari economico-finanziari, anche con la flessibilità servono il rispetto delle regole. Nel frattempo ci sono e continuano le audizioni in Parlamento di vari soggetti. Banca d'Italia, che ha detto non è impossibile arrivare all'1% l'anno prossimo, non è irraggiungibile. la ripresa c'è ma stenta ancora a rafforzarsi. E invece più dura è stato l'ufficio parlamentare di bilancio, quello che è diventato famoso. Allora, che cos'è? È un organo di cui anche l'Italia si è dotata, come avviene in altri paesi, perché si dice quando fa una legge di stabilità, legge finanziaria, legge di bilancio, se le cifre dà solo il governo è chiaro che tendono a essere quantomeno, insomma, così ottimistiche. Ci deve essere un ufficio come in altri paesi che certifica le proiezioni che il governo mette in legge finanziaria e poi manda anche a Bruxelles. E da questo punto di vista lì nasce l'ufficio parlamentare di bilancio, il quale critica la mancanza di un disegno organico nella legge di bilancio, nella finanziaria. Misure frammentarie, manca disegno organico, sono solo alcuni interventi sono importanti per gli investimenti. Poi va avanti, dice attenzione, c'è un rischio di sovrastimare il gettito che arriverà dalla voluntary disclosure, quindi la possibilità di mettersi in regola con il fisco, la riapertura delle possibilità. La rottamazione fiscale, quindi le cartelle di Equitalia a cui facevo riferimento, rischia di indebolire l'obbedienza fiscale. E dice attenzione, se vogliamo se l'Italia vuole arrivare all'1% nel 2017 serve una crescita più intensa. Insomma, diciamo così, gli è piaciuta la legge di stabilità all'ufficio parlamentare di bilancio. Di questo parleremo subito in apertura, perché tra Bruxelles e le audizioni interne oggettivamente non è che sta legge abbia sollevato. Devo dire che Bruxelles, più che sulla legge, anche se Juncker ha detto attenzione, l'Italia ci aveva promesso un deficit all'1,7, adesso ce lo porta al 2,4, per quello che mi riguarda le spese per terremoti e gestione dei flussi migratori valgono lo 0,1%, però Juncker critica soprattutto l'atteggiamento politico italiano, quindi le critiche del premier Renzi in primo luogo. Le audizioni invece vanno nel merito della legge di stabilità e appunto i dubbi che emergono su alcune stime e proiezioni sul 2017. Anche di questo parleremo, appunto, oltre che di Ferrari e di Equitalia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina su Focus Economia, sul sito di Radio 24 di Focus Economia. Rapidamente le altre notizie, in breve. Allora, andiamo avanti, adesso torneremo sulla manovra. È intervenuta anche l'Istat, che invece dà un giudizio più morbido, di questo però parliamo subito. Perché lo dico? Perché l'Istat dice attenzione, complessivamente il 57% delle imprese risulta avvantaggiato dalla riduzione dell'IRES e dal superammortamento e riduzione dell'ACE, no? L'aumento della quattordicesima e l'incremento delle detrazioni IRPEF, la non tax area per i pensionati, innalzano in tutto di 1 miliardo di euro il reddito delle famiglie. Questo lo dice sempre l'Istat. Il rialzo della quattordicesima tocca i meno ricchi, il beneficio è in media di 250 euro, la platea di 3 milioni e 100 mila persone. Le detrazioni fiscali, aggiunge sempre l'Istat, non sono il massimo dell'equità, e fa notare l'Istat che un giovane su 10 nel 2015 viveva in povertà assoluta, stiamo parlando di 1.200.000 individui. Ancora i NEET, i giovani che non studiano e non lavorano, iniziano a scendere, meno 11%, 250.000 NEET in meno. E poi l'Istat si è occupata anche del sisma e delle zone a alto rischio sismico. Ci sono praticamente 1.900.000 case in questo paese che sono in zone ad alto rischio sismico. La metà di queste case è stata costruita prima del 1971, cioè prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica, quindi non sono, diciamo, antisismiche. La cosa incredibile è che il 45% di queste case costruite prima della normativa antisismica sono state costruite in Calabria. Io, cioè, veramente lo dico con massimo rispetto Ma mi piacerebbe un giorno arrivare a qualche notizia sulla Calabria che la portasse ai primi posti in maniera positiva e non sempre ai primi posti in maniera negativa. Comunque, il 45% di tutte le case costruite in maniera non antisismica prima del 71 in Calabria, ti chiedi perché, visto che la Calabria adesso a spanne non te lo so dire quanto rappresenti in termini di popolazione. Adesso andiamo a cercarlo, fatto centro popolazione italiana, andiamo a vedere se c'è un rapporto plausibile su questo. Comunque, intanto ascoltiamo i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS, sul rapporto sulle indicazioni e le analisi arrivate dall'Istat in audizione, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il quadro congiunturale del terzo trimestre dell'anno è caratterizzato dal prevalere di segnali di espansione dopo le difficoltà registrate nei mesi precedenti. Nel linguaggio algido dell'Istat, questa è una frase piena di ottimismo. L'ha pronunciata oggi il presidente dell'istituto, Giorgio Alleva, durante l'audizione parlamentare alla Commissione Bilancio di Camera e Senato. Ancora una volta poi all'industria a far ben sperare. In particolare, ha detto Alleva, la ripresa del settore industriale appare consistente, tale da sostenere la crescita economica nel terzo trimestre dell'anno in linea con quella dell'area euro. Però non è mancata una doccia fredda, nell'ultimo trimestre del 2016 non sono previste accelerazioni particolari, quindi l'obiettivo dell'1% di crescita del PIL resta sospeso, anche se raggiungibile, come hanno sempre detto stamane Banca d'Italia e Corte dei Conti. Notizie di cui preoccuparsi, l'Istat ne elenca diverse, a cominciare dall'aumento del valore aggiunto procurato dall'economia sommersa, che è aumentato da 187 a 194 miliardi, tanto da far pensare che le politiche pubbliche di lotta al sommerso e all'evasione fiscale sono pressoché irrilevanti. C'è un punto importante su cui Bruxelles potrà fare le pulci, probabilmente alla legge di bilancio italiana. Due terzi delle entrate, dice Banca d'Italia, sono una tantum e solo un decimo delle nuove coperture è frutto di tagli strutturali al bilancio pubblico. Questa è la vera fragilità della manovra, ma è altrettanto vero che aumentare drasticamente i tagli non farebbe altro che accrescerne l'impatto recessivo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, lo dico a un ascoltatore, Lorenzo, che sta polemizzando: non abbiamo mai detto che il Monte dei Paschi sale per la Clinton, abbiamo detto che tutte le borse europee sono intonate bene dopo che l'America sta scommettendo, lo so anch'io, lo dico a altri ascoltatori, che con la Brexit tutti gli esperti presero una tramvata micidiale. Però il motivo per cui che le agenzie citano come elemento per cui le borse stanno crescendo si chiama probabilità che vinca Clinton. Poi dentro Piazza Affari c'è il caso Monte dei Paschi, c'è il caso Ferrari e ce ne sono altri che abbiamo commentato. Non c'entra niente Monte dei Paschi con la Clinton. Allora, andiamo sulle audizioni sulla legge di stabilità. Partiamo da quella più neutra, la Banca d'Italia. Il vice direttore generale della Banca d'Italia, Luigi Signorini, dice: l'economia è in moderata espansione, terzo trimestre la produzione industriale farà più 0,5%, è da lì che poi la Banca d'Italia dice: il PIL in crescita dell'1% l'anno prossimo non è irraggiungibile. L'economia credo si sta espandendo seppure a un tasso moderato, in particolare le informazioni congiunturali relative ai periodi più recenti hanno per lo più, direi quasi tutte, un segno positivo. Nei mesi estivi è tornata ad aumentare la produzione del settore manifatturiero e nelle costruzioni, è proseguita l'espansione delle esportazioni, è rimasta sostanzialmente stabile l'occupazione dopo la crescita sostenuta dei periodi precedenti. Nello scenario programmatico, basato su un obiettivo di indebitamento netto per il prossimo anno più elevato di quanto indicato a settembre, il governo prevede per il 2017 una crescita del PIL pari all'1%. Questo valore è superiore alle stime dei principali previsori oggi disponibili, che variano tra 0,5 e 0,9, ma non è irraggiungibile tenendo anche conto delle ripercussioni sull'attività economica dell'orientamento nettamente espansivo della politica di bilancio. Allora, così appunto la Banca d'Italia. Adesso veniamo alle critiche più dure che sono arrivate dall'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro. Vedo che qualcuno mi sta scrivendo sulla Calabria, avete ragione, ho dimenticato di dirlo. Sì, perché l'Istat nel segnalare che ci sono, adesso riprendo la notizia, ci sono 1.900.000 case in zone ad alto rischio sismico, che metà di queste, quindi sostanzialmente 900, più di 900.000, sono costruite prima del 71, quindi cosa vuol dire? Non c'era la legge, la normativa antisismica, sicuramente non sono norma antisismica perché non c'era la norma. Fa notare che di queste 900.000 costruite prima del 71 in maniera non antisismica, la metà quasi sono in Calabria, che vuol dire 450.000. Allora, da come la capisco io, la Calabria, la metà di tutte le case costruite in maniera non antisismica prima del 71 e comunque a questo punto ha il 25% di tutte le case costruite in zone ad alto rischio sismico. Faccio notare che la Calabria rappresenta il 3% della popolazione italiana. Si commenta da solo il dato, dai. Vuol dire che ci sono aree in cui le case sono state costruite in maniera antisismica dopo 71 e aree invece. Ma ragazzi, poi adesso qualcuno mi sta scrivendo, lei è leghista, ma di che cosa stiamo parlando? Ma se tu hai il 25% delle case costruite in maniera non antisismica in aree sismiche e rappresenti il 3% della popolazione, ma che ci vuole, un genio a capire che qualcosa non funziona in quella regione per essere buoni? Magari si chiama 'ndrangheta, magari si chiama corruzione, non lo so. Allora, torniamo alle audizioni. Dicevo, l'ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, dice, insomma, non gli è piaciuta. Misure frammentarie, manca un disegno organico, solo alcuni interventi sono importanti per gli investimenti. Nella manovra è apprezzabile lo sforzo a favore degli investimenti, sia pubblici, e anche lo sforzo di incentivazione degli investimenti privati. È probabilmente il problema maggiore di cui soffre l'economia italiana in questa fase. Accanto a queste vi sono altre, molte altre misure, alcune importanti, alcune di rilievo, però c'è nell'insieme, al di là di queste, una certa frammentarietà degli interventi indicati. E poi appunto non è piaciuta la rottamazione delle cartelle Equitalia che indebolisce l'obbedienza fiscale, vi è un rischio di sovrastimare il gettito che arriverà dal condono, dalla voluntary disclosure. Ancora andiamo avanti con tutte, vorrei far ascoltare la Corte dei Conti, anche qui il Presidente della Corte dei Conti, Arturo Martucci di Scarfizzi, dice una cosa molto semplice, sul fronte delle coperture, cioè delle entrate, emergono taluni elementi di problematicità che inducono a qualche approfondimento. I tagli sono limitati, c'è poco spazio sulla spending review. Adesso devo anche richiamare Gutgeld, che è il commissario allo spending review, perché in effetti in questa legge di stabilità spending review sì, c'è, non c'è, c'è, non c'è, c'è, non c'è. Comunque, dai, il Presidente della Corte dei Conti. Sul fronte delle coperture emergono taluni elementi di problematicità che inducono a qualche approfondimento. Le maggiori spese sono compensate per meno della metà da tagli dei precedenti autorizzazioni e nel 2018, a fronte di aumento di spese superiore ai 15 miliardi, solo 4,5 provengono da corrispondente riduzione. Nel 2019 il contributo della revisione della spesa si fa più consistente, ma garantisce poco più del 50% delle maggiori uscite. Alla luce di un quadro così complesso, la Corte esprime quindi l'avviso che il permanere di vincoli stringenti per la finanza pubblica consigli di guardare alla programmazione per il prossimo triennio con particolare attenzione e cautela. E poi continua la Corte dei Conti, il governo deve stare attento dal gettito, dello stimare il gettito della lotta all'evasione, è un campo difficile. Sappiamo nella storia che va monitorato, i risultati non sono sempre all'altezza delle attese e deve spiegare anche come funzionerà la nuova riscossione. La rottamazione delle cartelle non è un condono. E poi altri elementi, i contratti a pubblica amministrazione, l'onere in regime dei rinnovi contrattuali risulterebbero di circa 1 miliardo e 700 milioni. Questo è il fronte italiano, adesso arriviamo anche al fronte di Bruxelles, però nel frattempo saluto e ringrazio il nostro primo ospite, perché vorrei tenere assieme il doppio fronte, e quindi grazie all'economista Domenico Lombardi, direttore di Global Economy, del Global Economy Program presso il Center for International Innovation, e tra l'altro ex al Fondo Monetario Internazionale, ex della Banca d'Italia, editorialista del Sole 24 Ore, con le cariche avrei finito. Buonasera Lombardi. Buonasera, buonasera a lei, grazie. Allora, resti con noi perché adesso ho il meteo e la pubblicità. Mi chiede un ascoltatore se ho mangiato bene alla Leopolda. Ma guardi, io ho mangiato bene a Venezia, in un baccaro, in qualche cicchetto. Non ero a Firenze, non ero a Leopolda, mi dispiace. Meteo, pubblicità. Tecnologie, logistica di magazzino, Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta per commentare il doppio fronte di reazioni, quello delle audizioni parlamentari e quello di Bruxelles. Professore, io le farei ascoltare anche quello che ha detto oggi invece un seccatissimo, io non ricordo dei tempi del primo scontro con Matteo Renzi, quando Juncker disse "Je ne suis pas stupide", una roba del genere, no, non sono mica stupido. Beh, oggi Juncker è tornato, Presidente della Commissione Europea, ha detto attenzione, l'Italia non smette di attaccare a torto l'Unione Europea. La commissione che presiedo ha introdotto nell'interpretazione del patto di stabilità degli elementi. La commissione che presiedo ha introdotto nell'interpretazione del patto di stabilità degli elementi di flessibilità che sono andati a beneficio di un certo numero di Stati membri. Prenderei l'esempio dell'Italia, perché l'Italia non smette di attaccare la Commissione, a torto, e questo non produrrà i risultati previsti. L'Italia oggi, nel 2016, può spendere 19 miliardi in più, che non avrebbe potuto spendere se non avessi riformato il patto di stabilità nel senso della flessibilità indicato. Allora, intanto vorrei un suo giudizio sulla legge di stabilità, che vale 27 miliardi, legge di bilancio, alla luce di quello che abbiamo ascoltato Lombardi. Poi veniamo anche ai rapporti con l'Europa, prego. Sì, guardi, la legge di stabilità sicuramente tocca i temi che sono quelli giusti, quindi incentivi agli investimenti privati, maggiore disponibilità di risorse per investimenti pubblici, attenzione agli aspetti distributivi, quindi sostegno alle famiglie, ai redditi meno abbienti e contrasto all'evasione fiscale. L'elemento di tensione nella legge di stabilità, che peraltro viene anche rilevato a Bruxelles da numerosi commentatori, è una tensione tra, da un lato, gli obiettivi della legge e quindi le tematiche che essa tocca, e dall'altro le modalità di copertura e quindi un po' l'organicità di tutto l'impianto della legge di stabilità. Quindi da un lato noi abbiamo sicuramente degli interventi di natura espansiva, e in questo senso quindi la legge ha l'intonazione giusta, dall'altro però questi interventi sono finanziati in larga misura da manovre una tantum, e quindi e se posso aggiungere anche con stime, voglio dire, tu puoi stimare che da un ascoltore mi dice ma lei come fa a dire, non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, che potrebbe essere sovrastimato il gettito dalla rottamazione delle cartelle, un ascoltatore mi sta scrivendo ma lei con tutti gli italiani che hanno problemi con Equitalia non sarà assolutamente sottostimato, ho capito, è la sua idea, io sto riferendo quello che dice oggi la Corte dei Conti in audizione, però nell'integrale quello che lei stava dicendo Lombardi, il problema è che questi gettiti sono una tantum, cioè ti va una volta sola la rottamazione, e sono tutte stime su entrate fiscali che sappiamo vanno maneggiate con cura. Esattamente, la natura degli interventi una tantum, che appunto in larga parte si riferiscono a interventi di contrasto all'evasione fiscale, sono naturalmente stime che per loro natura soggetti a una sostanziale incertezza e quindi in questo senso creano, diciamo, un'ulteriore irritazione a Bruxelles. Bruxelles, ma anche diciamo, gli analisti internazionali avrebbero gradito vedere una maggiore organicità nell'impianto della legge di bilancio, non solo in termini, diciamo, di interventi strutturali di riduzione della spesa. Questi interventi di riduzione della spesa in realtà sono una componente minimale dei vari interventi previsti per finanziare appunto la legge di stabilità. E questo, diciamo, è un primo elemento da rilevare. Il secondo elemento da rilevare, dal punto di vista soprattutto della Commissione europea, è che data la natura espansiva della legge di stabilità, naturalmente questo comporta un aumento dell'indebitamento e l'Italia naturalmente è un paese già con un elevato debito pubblico, un elevato debito pubblico che per la verità è aumentato ulteriormente negli anni passati grazie a interventi fiscali che hanno penalizzato la crescita del PIL che proprio questa legge si propone in qualche modo di rimediare con la sua natura, come abbiamo detto, di espansiva. D'altro lato, nel breve periodo questo comporterà un aumento appunto dell'indebitamento che viene seguito con particolare preoccupazione sia a Bruxelles ma sia nelle capitali, diciamo, dei paesi del nord Europa, in primo luogo naturalmente Berlino. Adesso arriviamo invece alla parte di Bruxelles. Questa è la parte che mi interessava sulla legge di bilancio. Lei tra l'altro ha scritto anche proprio di Bruxelles, il leader, la deriva agnostica sulla crescita qualche mese fa, se non ricordo male. Adesso vi arriveremo. Le parole di Juncker, però, se ci vado a memoria, non sentivo un Juncker così seccato da tempo. Dopodiché uno può anche rispondere, ce ne faremo una ragione. È vero che l'Italia non le ha mandate a dire questa volta, che il Premier Renzi ha detto sui flussi migratori ogni paese fa quello che ha promesso di fare, o altrimenti non voto il bilancio, il riferimento all'Ungheria di Orbán non solo, ha continuato a dire che non esiste un patto di stabilità per non rimettere in sicurezza mettere in sicurezza le scuole, quindi antisismico e i flussi migratori. Perfetto. Oggi però, insomma, mi sembra che Juncker, che abbiamo ascoltato prima, indicasse l'Italia come l'esempio, diciamo, dei paesi che attaccano ingiustamente l'Europa. È tattica ancora o secondo lei invece i rapporti si stanno realmente raffreddando? In realtà entrambi, nel senso che i rapporti tra Bruxelles e il nostro governo hanno conosciuto, diciamo, una serie di momenti di tensione non da oggi. D'altro lato l'Italia sconta una depressione economica che sta durando da vari anni proprio per aver introdotto e implementato una serie di misure che in qualche modo avevano l'approvazione e venivano, diciamo, guidate da Bruxelles, e di questo noi ora ne paghiamo le conseguenze. E questo ha creato, diciamo, un atteggiamento anche in Italia in qualche modo antagonistico rispetto alle autorità europee. D'altro lato Bruxelles vorrebbe vedere maggiori interventi strutturali e in questo senso questo vuol dire interventi, diciamo, di riordino, riorganizzazione della spesa pubblica, così da rendere le misure previste dalla legge di bilancio sostenibili. Perché il problema è quando si incentivano, forniscono, diciamo, misure di sostegno ai redditi meno abbienti, questi non necessariamente tendono a tradursi in maggiori consumi, a meno che i cittadini non pensino che siano misure destinate a durare. Quindi se è una tantum, naturalmente non è detto che questo si traduca in maggiori consumi, che è veramente il punto cruciale. Questo è vero, lei ha ragione. Però dopo il traffico le chiederò un'ultima cosa. Perché lei scrisse proprio su Sole 24 Ore di una deriva agnostica dei leader mondiali sulla crescita. Traduco, ossia che uno dice sì, la crescita non va come dovrebbe, e poi però agnosticamente non ne prende atto, ma non dà la sensazione di avere una capacità di direzione, di credere in qualcosa, in questo senso agnostici, in qualche soluzione che possa cambiare la rotta. Ora, su questo si inserisce però il confronto tra Roma e Bruxelles, perché a torto o a ragione, lo dico in maniera molto chiara, Renzi ritiene che, c'è una nota appena diffusa, adesso la leggo, che levare alcune spese dal patto di stabilità sia cosa buona e giusta, flussi migratori, terremoto e messa in sicurezza sismica del paese, e che comunque la priorità sia da dare sia la crescita, che in questo modo siamo arrivati a questa stagnazione con questo tipo di Europa. Poco fa ha parlato il Premier e ha risposto a Juncker, ha detto Renzi, Juncker dice che faccio polemica, noi non facciamo polemica, non guardiamo in faccia nessuno, perché una cosa è il rispetto delle regole, altro che queste regole possono andare contro la stabilità delle scuole dei nostri figli. Si può discutere di investimenti per il futuro, ma sull'edilizia scolastica non c'è possibilità di bloccarci. Noi quei soldi li mettiamo fuori dal patto di stabilità, vogliano o meno i funzionari di Bruxelles. E quindi ha dato del funzionario di Bruxelles Juncker, il quale immagino Lombardi ne sarà contentissimo. La risposta dopo il traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento Focus Economia. Allora, professor Lombardi, da questo punto di vista, cioè, mi sembra di poter dire che lei ha sempre citato l'agnostico, ho ricordato come i leader tendono ad essere agnostici sulle soluzioni, dicono che non si cresce come dovremmo, però poi nessuno ha un credo, un qualcosa su cui tentare. La risposta di Renzi mi sembra che non sia destinata a placare le polemiche, visto che dice vogliono meno i funzionari di Bruxelles, e quindi... È giusto che un paese, l'Italia piuttosto che la Francia, abbia la sua idea e la porti avanti, o sbagliamo a rendere pubbliche quelle che sarebbero trattative sotto traccia, da farsi sotto traccia, sotto banco? Guardi, l'emergenza nazionale per l'Italia è la crescita asfittica, la crescita che quest'anno toccherà lo 0,8% secondo il Fondo Monetario Internazionale, e nei prossimi anni dovrebbe mantenersi sempre su questi livelli estremodesti, quindi questo è il vero problema rispetto al quale naturalmente sia il governo italiano sia altri governi vorrebbero delle iniziative di respiro internazionale, sia europeo ma anche mondiale, e credo che la ragione del dialogo anche aspro tra il governo Renzi e le autorità europee sta proprio in questo. Da un lato le autorità europee cercano di salvaguardare soprattutto la stabilità della situazione fiscale italiana, dando meno enfasi sulla crescita. Il governo italiano invece naturalmente giustamente pone maggiore enfasi sulla crescita, soprattutto in una situazione in cui l'Europa non è stata in grado di partorire alcuna iniziativa di grande respiro volta a innalzare appunto la crescita del PIL in Italia ma anche in altri paesi. La crescita di molte economie europee è comunque asfittica, sia pure con notevoli eccezioni, e di qua quindi la posizione del governo italiano di almeno unilateralmente di dare maggiore spazio, risalto alle misure a favore della crescita, e però perché queste misure siano veramente efficaci devono essere credibili. E in questo senso è quello il problema che lei sottolineava, ossia sono un po' una tantum e un po' non dico ottimistiche, ma quando tu dici dovrebbe buttare quello, il gettito fiscale sulla rottamazione dovrebbe portare a quello, è un dovrebbe, un po' con un eccesso di condizionale, mettiamola così. Staremo a vedere che altri sviluppi avrà questa vicenda. Io intanto ringrazio il professor Lombardi, mi sposto su un altro tema che in qualche modo anticipa la borsa, e mi riferisco ai dati molto buoni della Ferrari. Non va bene in Formula 1, questo lo sanno tutti gli appassionati, io non so se vi sia un legame di rapporto inverso tra come ti posizioni e come vai coi conti. A guardarla così la battuta verrebbe facile, perché la Ferrari invece i conti che oggi ho diffuso sono da record, un trimestre da record, più 20% l'utile netto. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, Andrea Malan in collegamento da Maranello, ma non sei in auto, Andrea, no? Non sono in auto, no, buonasera a tutti. Infatti si sente troppo bene perché tu Allora, a parte le battute, insomma, abbiamo visto la settimana scorsa un ottimo dato per il gruppo Fiat Chrysler sul fronte, certo. E la borsa ne ha preso atto. Oggi c'è Ferrari. Allora, Ferrari, anche questo tema di borsa, è dopo il Monte dei Paschi oggi il secondo miglior titolo, più 6,80%. Più 20% l'utile netto, ricavi a 783 milioni, scende l'indebitamento e aumentano gli obiettivi per il 2016. I motivi? Dunque, i motivi sono innanzitutto un aumento sia pure limitato delle consegne di auto e un miglioramento dei ricavi più che proporzionale legato al mix. Ci sono nuovi modelli. Ferrari, da quando è arrivato Marchionne, ha incrementato il ritmo di lancio di nuovi modelli, per esempio con serie speciali come la Ferrari e adesso la Ferrari aperta, che è stata lanciata di recente. Sono macchine che vengono prodotte in numero di esemplari limitato, ma ricordiamolo agli ascoltatori, possono avere prezzi di vendita tra 1 e 2 milioni di euro, quindi sono, diciamo, sufficienti di per sé a far spostare l'indicatore di ricavi complessivo. Per quanto riguarda la redditività, cresce, diciamo, in maniera abbastanza costante in relazione appunto anche all'andamento dei ricavi, all'attenzione ai costi che è tradizionale, tutti riconoscono a Sergio Marchionne, e l'obiettivo del debito, il debito è sceso a 585 milioni di euro, il debito industriale dovrebbe risalire un po' a fine anno perché in questo trimestre la Ferrari pagherà le tasse sia del 2015 che del 2016 per un ammontare di circa 200 milioni. Comunque c'è un obiettivo di tenerlo sotto quota 700 milioni per fine anno e di ridurlo ulteriormente l'anno prossimo, con un EBITDA, quindi un MOL, insomma un utile, un margine operativo lordo, che potrebbe raggiungere il miliardo di euro, un dato indubbiamente, ecco, impressionante per un'azienda automobilistica. Volevo tornare sulla battuta, perché non era solo una battuta. In realtà mi sembra che l'andamento della Ferrari come team di Formula 1 non c'entri nulla con l'andamento della Ferrari come capacità di aumentare margini e quote di mercato. Sicuramente non nel breve periodo. È chiaro che una buona parte della PIL della Ferrari per la clientela deriva anche dal successo storico e tradizionale nelle corse, per cui se la Ferrari dovesse passare 20 anni senza vincere un gran premio, le vendite ne risentirebbero. Però sicuramente possiamo ricordare che anche in passato il cavallino è stato parecchi anni senza, certo, vincere il campionato mondiale, senza vincere anche i gran premi, per esempio prima dell'era Schumacher, e ciò non ha influito più di tanto. Cioè tu dici, nel breve non c'è una correlazione, attenzione al medio lungo termine, poi da tifosi, diciamo da italiani, ci interessa anche il breve sulle vittorie della Ferrari. Grazie intanto ad Andrea Malan del Sole 24 Ore in collegamento da Maranello. Questo ci porta sulla borsa. Devo dare una risposta ad alcuni ascoltatori complessiva sulla legge di stabilità. No, guardate, uno può pensarla come vuole sulla legge di bilancio. A mio avviso, al di là del fatto che le scuole, è vero, no, gli interventi antisismici in parte sono dentro, in parte sono fuori il patto di stabilità. È vero che la Germania, quando ha avuto problemi, non ha chiesto una deroga, diciamo, almeno quella deroga non l'ha chiesta, va a violare il patto per altri motivi, sul surplus di commerciale la Germania. Ma è vero che non ha chiesto di avere extra soldi per gestire scuole e flussi migratori. Guarda, secondo me, personalmente, al di là di quello che uno possa pensare, la cosa più debole di questa manovra non è tanto il ricorso a un deficit più alto per scuole e flussi migratori, sono A, le misure una tantum, cioè ogni anno tocca ricominciare da capo, B, l'aleatorietà, cioè l'incertezza sulle entrate fiscali e spending review, C, il fatto che il debito e il deficit strutturale, come lo calcolo Bruxelles, non cala, ma le prime due soprattutto. Poi voglio dire, scuola, flussi migratori, non è quello 0102, anzi. Va bene, parliamo dopo il GR24, parleremo anche di borsa e della parte fiscale, quindi rottamazione delle cartelle Equitalia, della manovra. 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Come relazionarsi con i clienti in modo semplicemente potente? Chiedilo a Eurotech, che sviluppa tecnologie innovative per l'industria 4.0. Grazie alle soluzioni Microsoft Dynamics, Eurotech gestisce vendite, marketing e servizio di assistenza in modalità multicanale. Lo ha fatto insieme ad Altitudo. Innova anche tu il tuo business con un partner Microsoft. Vai su microsoftdynamics.it. Microsoft Dynamics. Semplicemente potente. Stai cercando l'investimento giusto? Punta sul Bambù Gigante. Dall'edilizia all'arredamento, dall'industria tessile a quella alimentare, le applicazioni del bambù sono infinite. Eco investi anche tu in Bambù Gigante On Limoso. Trasforma il tuo terreno in una miniera verde che produce germogli preziosi e legname di alta qualità. Chiamalo 0541 83 0001 e crea la tua bellissima piantagione di bambù gigante. Informati su onlimoso.it o cerca Consorzio Bambù Italia. Sulla polizza auto non risparmiare solo qualcosina. Con Quix, l'assicurazione auto online del gruppo AXA, in caso di incidente puoi riparare l'auto nelle carrozzerie Car Clinic e fartela riportare a casa. Così risparmi anche tempo. Fai un preventivo su quixa.it. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo. Dica, ragioniere, quanti adempimenti dobbiamo adempiere per non essere inadempienti? Beh, IVA, TARES, IRAP, 22 adempimenti. E adempiendo? Quanto fa? Fa il 62% di tasse. E quanto resistiamo? 70 scadenze, una ogni 3 giorni. Resistiamo? Sì, resistiamo! E chi sono? Superman! Ma capo, mica siamo soli! C'è la CNA! Con CNA Imprese fai sentire la tua voce per un fisco più equo. CNA Imprese, connessi al cambiamento. CNA.it. Dal 12 al 27 novembre segui gli appuntamenti speciali di Radio 24 dedicati al test match. Notizie e curiosità in tutti i convocati e risultati e commenti delle partite nel weekend. Sabato alle 18 e domenica alle 8 al termine dei GR. Vivi il meglio del rugby su Radio 24. E non perdere lo speciale su ilsole24ore.com/testmatch. Entra in Cariparma, scopri Crédit Agricole. Nuova meta, stessa passione. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Diciotto e otto minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo la borsa e poi la parte fiscale, anche perché Sole 24 Ore se ne occupa, in particolar modo tutta la parte che riguarda Equitalia, nel senso che con la pubblicazione del modello si apre la finestra temporale per la sanatoria delle cartelle Equitalia. E ripeto, oggi sul Sole ci sono tutte le istruzioni per il compilamento anche e il pagamento. La borsa prima, 2,5% è il rialzo di Milano in chiusura, più 1,90 a Parigi e Francoforte, più 1,70 a Londra, più 1,90 anche il Dow Jones. Al di là di Ferrari che abbiamo appena commentato, spicca Monte dei Paschi, più 22,2%. Qui chiedo notizia a Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera, sì, quest'oggi infatti MPS è in grande falciai. Spolvero. Sì, poi è passato di mano di nuovo quasi il 7% del capitale, si avvicina all'assemblea dei soci, ricordiamo in programma il 24 di novembre. Intanto ieri la fondazione MPS ha proposto Falciai come nuovo presidente. Falciai, che è azionista e quindi direttamente coinvolto nella banca, detiene l'1,8% delle azioni dell'istituto senese. Poi sempre la speculazione su quello che potrebbe succedere da qui al 24 novembre, quando appunto i manager del gruppo adesso che sono stati in giro per il mondo in cerca di nuovi azionisti dovranno portare novità. E questo appunto, sì, l'ipotesi appunto Alessandro Falciai, e tanto si avvicina l'assemblea il 24 di novembre. Sulle banche restiamo ancora qualche minuto, perché oltre a Monte dei Paschi, Intesa San Paolo guadagna il 5,90%. Qui ci sono i dati diffusi venerdì scorso? Sì, i dati che, anche se hanno visto l'utile calare, è stato comunque superiore alle attese degli analisti e quindi sono state premiate con questo progresso del 5,88%. E sempre sul mondo bancario, Unicredit più 4,90%, Mediobanca più 4,30%, UbiBanca più 4%. Devo dire che restano più al palo le banche le fondenti, non so se si può usare questo termine, Popolare di Milano più 0,25, Banco Popolare invariata, fanno eccezione oggi le due banche. Sì, d'altra parte erano andate meglio nelle scorse settimane proprio sull'onda delle operazioni straordinarie. Poi va notato che oggi anche lo spread si è allontanato dal top di questa mattina era arrivato a toccare 160 punti, si è riportato poi a 155 punti, quindi un movimento consistente che ha favorito anche in modo ovviamente più vivace proprio l'attenzione sui titoli delle banche. Ancora, visto che parliamo di conti dei trimestrali, Brembo nei primi 9 mesi ha fatto più 10,6% il fatturato, con un utile che è cresciuto e anche in maniera significativa, nel senso che è a 186 milioni di euro, più 41% rispetto ai primi allo stesso periodo dell'anno precedente, e devo dire che il titolo ne prende atto, e come? Sì, infatti il titolo Brembo è stato premiato con un progresso del 4,7%, non tanto i ricavi ma soprattutto l'utile è risultato al di sopra delle attese del mercato, e quindi subito le azioni sono scattate diciamo al rialzo e hanno finito con questo progresso del 4,7%. Ancora tra i titoli in questo caso non bancari vorrei commentare Telecom da un lato, e di negativo abbiamo Snam che è apparentemente negativa, meno 14% perché c'è Italgas, e un ragionamento lo vorrei anche su quello, Snam e Moncler. Sì, allora per quanto riguarda Moncler è andata anche male. Partiamo da Telecom se ce la facciamo. Sì, Telecom è meno 0,27%, quest'oggi si è tenuta la conference call in cui Cattaneo ha illustrato i conti del trimestre che sono apprezzati da tutti gli analisti perché mostrano un netto miglioramento. Quindi perché venerdì e oggi il titolo comunque è stato debole? Perché era salito soprattutto nei giorni precedenti su tutta una serie di indiscrezioni giornalistiche che avevano fatto circolare un miglioramento dei conti, quello che poi in effetti è stato, e quindi come avviene in questi casi poi si vende sulla notizia. Oggi peraltro Cattaneo ha fornito nuove indicazioni sulle linee guida fino al 2018, si tratta di indicazioni di massima che poi verranno dettagliate nel piano di febbraio, nel piano industriale di febbraio. Comunque ha indicato il manager, anche il debito dovrebbe calare rispetto all'EBITDA senza vendite di asset, e comunque continuando ad accelerare sul piano degli investimenti che è uno dei più consistenti degli ultimi anni. E i titoli sul finale però, come ho detto, hanno frenato. Per quanto riguarda Moncler, meno 1,8% sale l'attesa per i conti di domani, l'azienda ha sempre stupito il mercato, però c'è chi dice che magari se non riuscirà a farlo ancora una volta potrebbe andar giù, e quindi si è portato avanti e ha venduto quest'oggi le azioni. Snam invece è discorso un po' più complicato, sì. Apparentemente i titoli hanno perso il 13,97%, d'altra parte si deve tener conto del fatto che è stata scorporata Italgas, quindi il calcolo va fatto sul cosiddetto prezzo rettificato, che non è che sarebbe di 3,78 euro. Quindi alla luce di questo in verità le azioni sono salite circa del 4%. Allora andiamo ai migliori e peggiori. Monte dei Paschi, appunto abbiamo già detto più 22%, Fiera Milano più 7, Ferrari appunto abbiamo detto, Servizi Italia più 5,90, Intesa l'abbiamo commentata, SNAI più 5,70. Il fronte opposto invece, oltre a SNAM che appunto sarebbe salita senza lo scorporo di Italgas, Alerion meno 6,50, Innovatec meno 5,70, Stefanelli meno 4,60, Carraro meno 4,50 e Molmed meno 4,20%. Grazie, l'onore Michele, Radio Cori, il Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico e poi parliamo di cartelle esattoriali di Equitalia e di che cosa prevede, visto che si è aperta oggettivamente la finestra temporale che si chiuderà perché se non si vogliono pagare le sanzioni, gli interessi di mora, bisogna trasmettere il modulo entro il prossimo 23 gennaio, chiaramente 2017. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia, dicevamo, con la pubblicazione del modello si apre la finestra temporale per la sanatoria delle cartelle di Equitalia, molto commentata anche nelle audizioni oggi parlamentari. Allora ascoltiamo, partiamo da qui, dall'audizione più critica, quella del Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio Giuseppe Pisauro, in audizione appunto alla Camera sulla legge di bilancio e sul decreto fiscale collegato alla manovra. Dice: attenzione, la rottamazione indebolisce l'obbedienza fiscale, finisce per premiare i contribuenti meno meritevoli. Riguardo invece all'altro grande capitolo, quello dello scioglimento di Equitalia, la creazione di un ente dell'ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate e Riscossione, ecco qui il modello di avere riscossione all'interno dell'agenzia che si occupa della gestione del fisco è un modello ampiamente diffuso a livello internazionale, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna. Quindi e seguire quel modello risponde anche alle osservazioni dei principali organismi internazionali. Però quello che va detto, diciamo, ed è evidente, che resterebbero comunque da affrontare i problemi che attualmente affliggono la fase della riscossione dell'imposta, che non sono specificamente legati ad Equitalia di per sé, ma piuttosto alle norme che regolano l'azione oggi di Equitalia. La cosiddetta rottamazione dei ruoli accumulati negli anni 2000-2015, riconoscendo l'estinzione di sanzioni e interessi di mora, non è difficile, diciamo, non immaginare che questo abbia nel medio periodo possa contribuire a indebolire il senso di obbedienza fiscale della platea dei contribuenti. Allora, oggi su Sole 24 Ore le istruzioni per la compilazione del pagamento. Cristiano Dell'Oste, buonasera. Buonasera. Partiamo da anche da quest'ultimo commento. Devo dire che oggi in audizione la Corte dei Conti ha sostenuto che la rottamazione delle cartelle di Equitalia in realtà non sia un condono, perché condono significa intervento sulle somme dovute, che nel caso della rottamazione non c'è. Però insomma, che cosa prevede, visto che avete pubblicato l'istruzione per la compilazione, la finestra e anche, se vogliamo, dare un commento sul gettito atteso? Prego Cristiano. Sì, in effetti è corretto dire che questo non è un condono, perché se si va a vedere in concreto a quanto ammonta lo sconto, a seconda dei casi, insomma, si vede che lo sconto può essere rilevante, ma rilevanti sono anche le somme da pagare. Cioè, a quanto arriva lo sconto? Ma adesso noi abbiamo fatto qualche esempio, lo sconto è particolarmente forte per quei tributi, per quelle violazioni in cui la sanzione è molto pesante, tipicamente gli omessi versamenti IVA, ad esempio, dove le sanzioni sono il 100% dell'imposta non pagata, ad esempio. Allora lì è chiaro che in questo caso, se io ho un 100% di sanzioni, togliendo le sanzioni e togliendo poi come dicevamo appunto gli interessi di mora, allora in quel caso cominciamo a pagare meno della metà. Ecco, se invece abbiamo per esempio un mancato pagamento dell'IRPEF, dove tipicamente la sanzione è nell'ordine del 30%, allora in questo caso lo sconto viene a essere più basso, intorno al 20-25%, poi molto dipende anche da qual è l'entità del ritardo, perché chiaramente la mora è tanto più pesante quanto maggiore è il ritardo. Così pure per quanto riguarda le sanzioni, in questo caso, per quanto riguarda le contravvenzioni, le multe stradali, in questo caso c'è una maggiorazione specifica che è prevista da una legge del 1981 che non viene a essere intaccata, perché non è una sanzione in senso stretto. Quindi diciamo, bisogna poi andare a vedere un pochino caso per caso, e una delle difficoltà che ci sono proprio in questa fase è che insomma, chi ha preso in mano il modulo di Equitalia l'avrà già notato, il modulo non riporta traccia dello sconto, nel senso che sarà Equitalia a calcolarlo. Io oggi presento domanda, okay, e la norma mi dice che Equitalia ha 180 giorni da quando è entrata in vigore il decreto legge, quindi sostanzialmente mi dovranno dire entro il 24 aprile dell'anno prossimo qual è lo sconto che si applica sulla mia cartella o sulle mie cartelle che io scelgo di rottamare. Quindi questa è una scusami variabile. Però quello che non capisco, perché devo attendere Equitalia? Non basterebbe calcolare, diciamo, interessi di mora, cioè quello che prevede la legge su questo? Ecco, questa è una bella domanda. Allora, perché il procedimento è strutturato così? Poi è chiaro che c'è una norma e quindi i professionisti si stanno attrezzando per fare delle stime. Tra l'altro posso anticiparti che domani sarà online sul sito del Sole 24 Ore un simulatore che permetterà a chi è interessato di cominciare a vedere a quanto ammonta lo sconto. Però diciamo che proprio perché Equitalia è l'agente della riscossione, la legge affida a Equitalia il compito di fare il calcolo definitivo. Finale. In questo è diverso dal ravvedimento operoso, dove è il contribuente, per esempio, che si fa i conti da solo e paga. Peraltro, diciamo, questa procedura è un po' più complicata, ma è più garantita paradossalmente, perché uno dei rischi maggiori per i professionisti che sono alle prese con il ravvedimento lo sanno, è che se io sbaglio a ravvedermi e non ho diciamo saldato i conti col fisco, qui nel bene e nel male ho è un il fisco che te lo pubblico, dice diciamo esatto, quello che mi dice quant'è, quello che lo esatto. Sconto. E questo è il primo aspetto, devo dire sulla le critiche sono arrivate non tanto sul fatto se sia o meno un condono, lo dico a chi sta scrivendo, ma l'ufficio parlamentare di bilancio dice che va a premiare i contribuenti meno meritevoli e indebolisce l'obbedienza fiscale. La Corte dei Conti dice che non è un condono e fin qua siamo tutti d'accordo. C'è un timore però che è emerso anche diciamo, in altre audizioni, penso alla Banca d'Italia, ma non solo, sul gettito effettivo. Allora è chiaro che nessuno lo potrà sapere finché non si chiuderà la finestra, quindi fino a dopo il 23 da dopo il 23 gennaio. Però sulla base delle esperienze passate noi sappiamo che in alcuni casi i condoni sono stati sovrastimati, cioè è arrivato meno delle attese. In altri devo dire, penso alla volontà di disclosure, forse perché aveva delle sanzioni pesantissime, riguardava anche i capitali all'estero, c'è stato addirittura più flusso delle attese. Ecco, la vostra impressione sul tema Equitalia cartelle esattoriali? Ma io posso dire che c'è un elemento che sarà probabilmente determinante da questo aspetto, ed è l'entità delle rate che si potranno ottenere per pagare il dovuto. Sì, perché qualcuno mi ha già scritto, se me la fanno in 4 rate io non ce la faccio comunque. Esatto, e noi abbiamo, alcuni colleghi sono andati venerdì scorso presso alcuni sportelli di Equitalia, Milano, Napoli e Roma, a vedere insomma cosa dicevano i cittadini in coda, e questo è il timore maggiore, perché al momento il testo del decreto legge così come in vigore dice al massimo 4 rate e tra l'altro da pagare al più tardi entro il 15 marzo del 2018, e non solo, chi fa la rateazione deve anche pagare un interesse da dilazione del 4,5% annuo sulla dilazione, quindi diciamo non è un termine molto vantaggioso, consideriamo che nel bene e nel male stiamo parlando di persone, anche di imprese, che non sono riuscite a pagare in tempo, e quindi è vero che qui c'è la possibilità di chiudere i conti con uno sconto, ma questo presuppone anche avere il denaro per pagare. Quindi Lo dico perché da questa misura il governo in finanziaria, in legge di bilancio, come si chiama adesso, si aspetta 4,5 miliardi, 4 miliardi arriverebbero dalla rottamazione dei ruoli e poi 2 miliardi la volontà disclosure bis, diciamo, per cui insomma 4 miliardi e mezzo, a parte che sarebbero una tantum e lo sappiamo, ma non è nemmeno così certo, non è poca cosa su una manovra complessiva da 27 miliardi, perché con quei 4 miliardi e mezzo riesce a coprire alcune spese, cioè stiamo parlando di un'entità importante. Certo, diciamo che l'impressione è che se il numero di rate sarà aumentato, come dovrebbe accadere, perché adesso ovviamente non abbiamo ancora un testo convertito, ce l'avremo al più tardi entro la vigilia di Natale, ma tutto lascia pensare, perché il dibattito tra i parlamentari va in questa direzione, che il numero delle rate sarà aumentato in modo anche significativo, adesso non possiamo fare delle ipotesi, ma si parla anche di andare oltre le 10 rate. Allora questo permetterebbe di diluire i pagamenti nel tempo, ovviamente diluirebbe gli incassi per lo Stato, ma probabilmente aumenterebbe di molto la platea dei contribuenti interessati a questo tipo di procedura. Da questo punto di vista è vero che le domande possono già essere presentate, addirittura siccome c'è la presentazione via PEC, qualcuno potrebbe anche aver già presentato la domanda via PEC sabato, perché il modello è stato messo online venerdì sera sul sito di Equitalia. Però è anche vero che chi non ha l'urgenza di una procedura cautelare che sta per scattare, perché la domanda blocca la procedura cautelare che non è ancora partita, ecco, chi non rischia la procedura cautelare forse può prendersi un attimo in più e vedere un attimo di tempo in più e vedere se le rate aumentano, perché poi adesso siamo con un decreto legge che deve essere convertito. Chi presenta domanda e fa la crocetta su 4 rate, se poi il Parlamento aumenta le rate le porta a 8, esatto, resta fregato. Allora, ma oddio, resta fregato in teoria? Credo di no. Perché poi dovrebbe poter aderire anche lui alla nuova possibilità offerta. E poi stiamo parlando di un decreto che viene convertito, quindi in genere la conversione retroagisce. Però non è così immediato, insomma, ci sarà comunque un documento firmato, quindi serviranno un documento firmato da me che dico voglio 4 rate, poi dopo le rate diventano 10, dico beh, a me piacerebbe averne 10. E allora mi dovranno o dire che posso presentarne un altro o dare una procedura di salvaguardia, insomma, quindi se non ho l'urgenza di presentare adesso la domanda, mi conviene aspettare e capire qual è la retenzione vantaggiosa. Grazie, esatto. Grazie anche per questo chiarimento, visto che appunto oggi è stato pubblicato. Ecco, alcuni mi chiedono ma qual è la coincidenza temporale, la ripeto, è che adesso scatta con la pubblicazione del modello, si apre la finestra temporale. Grazie a Cristiano Dell'Oste, veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani daremo anche qualche analisi prima del voto americano. Ripeto, le analisi prima del voto sì, vanno bene, sappiamo molte differenze tra Clinton e Trump. Ai mercati piace più una vittoria della Clinton, non so se questo vada a vantaggio o addirittura a svantaggio della Clinton stessa. Ne parleremo domani. Intanto, da Sebastiano Berisioni, le auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.